Cambiamo argomento. Forse i più anziani di voi ricorderanno come anni e anni fa, quando Paolo Villaggio era un brillante attore alle prime armi e Walter Veltroni era solo un bambino, in quel periodo felice qualcuno alla RAI avesse avuto l'idea di produrre e trasmettere una versione radiofonica di episodi della corazzata Potionkin. Impresa che tutto sommato non ebbe esito malvagio, nonostante lo scetticismo di quanti avevano fatto della facile ironia sulla possibilità di trasformare in sceneggiatura radiofonica, come a dire una sequenza di suoni senza immagini, quello che all'origine era un film muto, cioè una sequenza di immagini senza suoni. Ma come avrebbe sicuramente osservato Aristotele se avesse conosciuto il cinema e la radio, quello che conta in una storia non sono né le immagini né i suoni e neanche le parole, in fondo, ma la capacità di imitare un'azione, quella che lui definiva il mitos che corrisponde più o meno alla nostra trama. Niente paura, non intendo intrattenervi sulla poetica d'Aristotele a quest'ora della domenica. Ma quel vecchio episodio di contaminazione impropria mi è venuto in mente la settimana scorsa quando mi sono trovato di fronte all'edicola dove di solito acquisto i giornali, mi sono trovato di fronte a un'enorme locandina a colori che pubblicizzava l'uscita del primo corso in video per imparare a cantare. In video, cioè in videocassette, che è un oggetto tecnologico che ammette sì una colonna sonora, ma trova la sua ragione di essere, il suo valore di mercato essenzialmente nella possibilità di riprodurre e di ritrasmettere delle immagini. E per un bel po' sono restato lì come un allocco a chiedermi in cosa diavolo potessero giovare le immagini a chi si desiderasse imparare i misteri del canto, e forse ho supposto per aiutarlo a impostare correttamente secondo un modello visivo la forma della bocca e delle labbra. O forse per avvezzarlo a coordinare il ritmo alle parole mediante uno strumento grafico come quello reso popolare dalla pratica del karaoke. Boh. Altre idee proprio non me ne venivano e queste non mi sembravano molto brillanti, anche perché i grafici del karaoke notoriamente più che confusione non fanno. E quanto alla forma della bocca, oltre al saggio consiglio di aprirla quando si vuole parlare e di chiuderla quando si preferisce tacere, c'è ben poco da dire, c'è ben poco da aggiungere. Non quanto basta supportare un intero corso. Eppure il corso era lì, redatto in collaborazione con una cosa che si chiama CPM, Centro Professionale della Musica, un'organizzazione presumibilmente ad alto livello di serietà e a disposizione di ogni frequentatore di edicola provvisto a casa di un videolettore. Anzi, visto che il videolettore ce l'ho e la prima uscita era offerta a ragionevole prezzo di 7.900 lire, quasi quasi sono stato tentato di acquistarla seduta stante per soddisfare la curiosità. Solo alla considerazione di quanto siano sempre stati difficili i miei rapporti col mondo della parola intonata, una scoperta che ho fatto in terza elementare, quando mi sono trovato esonerato dalle lezioni di canto, ho preferito lasciar perdere. Poi, a un esame più attento, ho scoperto che le materie in cui si articola quel corso non erano soltanto la tecnica vocale, la musica, l'addizione, le canzoni, il repertorio e altrettanti tecnicismi. C'era anche uno spazio autonomo per la gestualità. E per imparare a gestire i propri gesti, come credo si dica, non c'è dubbio che un supporto visivo possa essere utile, insomma. Magari uno si potrebbe chiedere se l'arte del gesto espressivo faccia parte davvero a pieno titolo della capacità di cantar bene, ma il punto non è questo, perché anche l'arte di rilasciare interviste, per esempio, non ha niente a che fare con la musica, eppure tra le materie offerte in quella locandina c'era anche come fare l'intervista, il che in definitiva spiega tutto, perché quel corso in realtà non era destinato a chi vuole imparare a cantare, ma a chi vuole diventare un cantante, che è una cosa diversa. Proprio come lo studente non è necessariamente uno che studia, osservazione che di questi tempi potrebbe sembrare ovvia e che invece risale a Giuseppe Peano, che di semantica un po' se ne intendeva. Per essere un cantante, come lo percepisce la cultura contemporanea, bisogna prestare molta attenzione non solo a come ci si muove, ma anche a che aspetto si ostenta, che abiti si indossano, quali accessori si esibiscono, insomma tutte quelle caratteristiche che non a caso si definiscono collettivamente come immagine. Certo, che questa immagine la si possa attingere da una videocassetta è abbastanza illusorio. Come abbastanza illusorio pensare che si possa diventare un artista, non importa se ricco o famoso o no, seguendo un qualsivoglia corso di spense. ma di fatto quella pubblicità non prometteva questo, prometteva solo di insegnarti a cantar bene. È altrettanto difficile, forse altrettanto illusorio, ma lecito è lecito. In questi casi, vedete, non è necessario fare delle promesse mirabolanti, a deludersi la gente ci pensa sempre e comunque da sé.